Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, sono Juliette. Juliette Belajou. Buongiorno, io sono Carrie. Sono felice di conoscerti finalmente. Siediti, siediti. Grazie. Beh, io sono elegantemente in ritardo, ma Alec è molto più elegante. Sì, lui è sempre elegantissimo. Che splendida borsa. Oh, grazie, è vintage. La fodera di seta ha almeno un migliaio di anni, ma mi sono innamorata. Ci vuole stile, e stile è la parola di oggi. Noi oggi lavoreremo sullo stile di vita, il percorso personale su cui ogni giorno tutti noi ci misuriamo per raggiungere e o mantenere la salute fisica e mentale. Siete pronti? 800 24 00 24, benissimo, allora il nostro allenamento può avere inizio. La settimana scorsa vi abbiamo proposto di usare il contapassi. Se non l'avete ancora fatto, fatelo oggi, domani, ma fatelo. Il nostro obiettivo è di raggiungere 10.000 passi al giorno, non subito, anche gradualmente. L'importante è iniziare e perseverare passo dopo passo. Nel giro di poche settimane questo piccolo cambiamento nel nostro stile di vita produrrà a cascata altri cambiamenti. In linea con noi abbiamo il professor Pierpaolo De Feo, direttore del Curiamo. Il Curiamo è il centro universitario di ricerca attività motoria dell'università di Perugia. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Professore, possiamo dire in cammino verso il benessere? Assolutamente sì. I benefici che uno può aspettarsi da uno stile di vita attivo, come il camminare almeno quei 3-4 chilometri al giorno a passo svelto, sono numerosissimi e riguardano non solo quelli più noti, come la riduzione della pressione arteriosa, del grasso addominale, quindi della circonferenza vita, il miglioramento dello stato di forma fisica generale, la riduzione eventualmente della glicemia, ma anche effetti meno noti ma di grande rilevanza, di grande importanza. Per esempio, vi sono degli studi scientifici che dimostrano come l'attività fisica regolare riduce l'incidenza di due tumori molto frequenti, il tumore del colon e il tumore della mammella, quindi riduzione di questi due tumori frequenti. Inoltre sono anche dati oramai documentati con indagini radiologiche sofisticate che il camminare in persone sopra i 60 anni di età aumenta il numero di neuroni nella corteccia cerebrale, quindi aumenta la nostra massa grigia ma anche la massa bianca cerebrale, che significa migliore capacità cognitiva e relazionale e prevenzione delle problematiche legate all'età a livello cerebrale. Professore, dopo quanto tempo possiamo iniziare ad avere questi miglioramenti? Guardi, l'importante è che lo stile di vita diventi un'abitudine, cioè non va mai abbandonato, perché nei nostri geni il nostro DNA è codificato per fare l'attività fisica, quindi la sedentarietà è patologia per noi, quindi il messaggio è che va fatto regolarmente sempre. Ci sono studi che documentano anche a 80 anni i benefici, quindi cominciare, come dice lei, gradualmente, per chi non ha mai fatto niente, anche 10-15 minuti al giorno a passo svelto, poi ogni settimana aumentare di 5 minuti per arrivare a quell'obiettivo dei 10.000 passi. O se uno non c'è il contapassi può anche calcolare la distanza, basterebbero un 3-4 km al giorno a passo svelto per avere già importanti benefici. E non è necessario farli tutti insieme, tutti in una volta? Non è necessario, quindi se uno da un punto di vista pratico ha necessità di frazionare questo lavoro può farlo. L'importante è che la camminata sia abbastanza sostenuta, nel senso non una camminata da vetrine, ma una camminata che impegni da un punto di vista cardiovascolare. Il limite è che bisogna poter parlare, ecco, questo è da un punto di vista pratico il messaggio. Quindi usiamo il contapassi, cerchiamo almeno di muoverci, cerchiamoci un amico, perché così lo facciamo insieme e possiamo continuare a chiacchierare con l'amico. L'importante è non avere il fiatone. Non avere il fiatone, il limite è quello, ecco, per avere il massimo beneficio, soprattutto per bruciare i grassi. Professore, rimanga in ascolto perché potremmo avere ancora bisogno di lei. Grazie per il momento. Intanto invito i nostri ascoltatori, oltre che a seguirci, a chiamarci all'800 800 24 00 24, allenamento per uno stile di vita salutare. E tra i parametri sensibili all'attività fisica, come ci ha spiegato il professor De Feo, c'è la glicemia. Che cos'è? Perché è importante e chi deve controllarla? Noi abbiamo realizzato un mini sondaggio per capire quanto ne sappiamo. Ascoltiamo. La glicemia è indica la presenza di zuccheri sempre nel sangue. La glicemia è praticamente la quantità di zuccheri nel sangue. Una quantità troppo elevata potrebbe portare a diabete. La glicemia non lo so, non te lo so dire. Mi spiace. Per quanto riguarda la glicemia, indica il tasso di zuccheri presente nel sangue. A seconda dei livelli medio-alti di glicemia, la persona può essere esposta a rischio, per esempio, di diabete. La glicemia, invece, sono gli zuccheri contenuti nel sangue? Sì, è un problema medico che riguarda i zuccheri, insomma, eccetera. L'ultima volta che l'ho controllato è 2 anni fa. La glicemia è, credo, la concentrazione di zucchero nel sangue. Di zuccheri nel sangue, insomma, la glicemia viene anche spesso associata al diabete, viene tirata in ballo insieme alla pressione alta, al colesterolo elevato, al sovrappeso, quando si parla di sindrome metabolica. Ne abbiamo parlato tante volte, naturalmente ne parleremo anche oggi, ma vorremmo allargare il nostro discorso toccando anche altri aspetti, ad esempio la glicemia nei bambini, negli sportivi. Affronteremo naturalmente anche il capitolo delle diete, che si basano sulla preferenza di alimenti a basso indice glicemico, per capire se, quando e chi eventualmente sono indietro. In linea con noi è tornata a trovarci la professoressa Lorini, direttore della clinica pediatrica all'Università di Genova presso l'Istituto Giannina Gaslini. Buongiorno, buongiorno, bentornata. Buongiorno, grazie a voi. E abbiamo anche in linea il professor Umberto Valentini. Il professor Umberto Valentini è presidente di Diabete Italia, che è il consorzio che riunisce tutte le società scientifiche e le associazioni di pazienti e operatori professionali del mondo del diabete. Professore, buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno a tutti. Professore Salorini, che cos'è allora questa glicemia? Quali informazioni davo ai medici e perché è importante? Che relazione ha con il nostro stile di vita? Ma la glicemia è molto importante. Giustamente qualcuno già ha risposto dicendo che la presenza di zucchero nel sangue, uguale se noi non avessimo lo zucchero nel sangue, perché anche l'ipoglicemia è molto grave, uno non capisce più niente quando va in ipoglicemia. Da pediatra le dico che noi ci preoccupiamo quando il bambino va in ipoglicemia, perché può addirittura andare in convulsioni, quindi è importantissima la glicemia e deve essere anche a livelli normali. Normale voglio dire che sia inferiore a 100, ma non inferiore a 60-50, se no il bambino va in ipoglicemia, e non superiore a 126, se no siamo già in condizione di diabete dopo carico orale o dopo mangiato. Professor Valentini, questi dati, questi valori sono uguali anche per gli adulti? Sì, il valore di glicemia è considerato normale come valore massimo, sono 100 mg per decilitro. Un valore che cade tra 100 e 125, 126 di glicemia indica un'alterata glicemia a digiuno. Sopra 126, se la glicemia viene confermata per più di 2 volte sopra 126, si può già porre diagnosi di diabete. Quindi già la glicemia a digiuno ci dà informazioni estremamente importanti. Quindi i valori sono normali sotto il 100, tra 100 e 126 indicano quelle persone che hanno una situazione di maggior rischio di diventare poi diabetiche. Professore, la glicemia si muove e ha delle variazioni di cui immagino bisogna tenerne conto, glicemia a digiuno e non, ma la glicemia si muove anche per effetto dell'attività sportiva. Assolutamente sì, infatti come diceva poco fa il professor De Feo, l'attività fisica diventa uno strumento, una terapia più che strumento, una terapia tra le più efficaci nel controllare la glicemia. Quindi certamente il movimento fa scendere in modo naturale la glicemia senza quei rischi di cui parlava la dottoressa professor Lorini poco fa di provocare dell'ipoglicemia. Quindi il muoversi, fare attività fisica, attività sportiva, permette di far utilizzare in modo corretto questo carburante che è il glucosio dal nostro corpo in modo perfetto, cioè quindi senza rischi di avere incidenti di una glicemia che si abbassa troppo. Quindi l'attività fisica è sicuramente l'approccio terapeutico insieme all'alimentazione più corretto, soprattutto quando ci si trova di fronte a delle alterazioni, come posso dire, iniziali del metabolismo glucidico. Intanto in linea con noi abbiamo Oscar da Venezia, che saluto. Buongiorno Oscar, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti i vostri ospiti. Oscar. Allora niente, io sono un istruttore di Nordic Walking. Sì. Ho fatto una collaborazione con l'ospedale di Treviso l'estate scorsa, di cui il dottor De Feo sa molto bene di che cosa stiamo parlando, perché ci sono stati diversi centri antidiabetici di vari ospedali di Italia e praticamente abbiamo fatto questa collaborazione, portavo a camminare dei pazienti affetti da diabete, fatti gli esami prima di iniziare questa nuova attività fisica. Sì. Anche gente che non ha mai fatto attività fisica, facevamo 2 ore, due uscite alla settimana, siamo andati avanti per 2 mesi e mezzo, 3 mesi. E alla fine tutti hanno rifatto gli esami che erano stati richiesti e abbiamo avuto delle soddisfazioni notevoli, molto. Vede, professor De... soprattutto sull'emoglobina glicata, di cui parleremo nel corso della trasmissione, ma mi interessa coinvolgere il professor De Feo. Nordic Walking, professor De Feo, è un'ottima disciplina per chi ha problemi di diabete e obesità, perché consente di consumare un pochino più calorie rispetto alla semplice camminata, in quanto si cammina con l'ausilio dei bastoncini. Si spinge con le braccia. In più dà anche stabilità, soprattutto nell'obeso che ha problemi osteoarticolari, riduce un po' il sovraccarico delle articolazioni sugli arti inferiori, quindi è sicuramente un toccasana, possiamo dire. Andiamo a Maurizio, che ci chiama da Torino. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a voi tutti e grazie per l'occasione. Una domanda al professore, vista la vita sedentaria che faccio, mi piacerebbe sapere se questi 4 chilometri di cui parla li posso dividere 2 al mattino e 2 la sera e su un tapirulan, perché alcuni mi dicono che il tapirulan non serve a niente perché non si spinge, cioè ruotando lui il terreno ti scappa sotto i piedi e tu fai poca fatica, se è vero questo. E poi un'altra domanda, il mio problema non è la glicemia ma è il colesterolo buono. Sì. E ce l'ho sempre basso. L'attività fisica può aiutare? Grazie. Professor De Feo. Rapidamente alle 3 risposte. La prima l'avevamo già detto, sì, si può frazionare in 2 volte al giorno senza problemi. Il tapirulan va bene uguale, è un pochino noioso rispetto al camminare all'aperto, però i benefici sono sovrapponibili. Per quanto riguarda il discorso del colesterolo HDL, l'esercizio fisico è una delle poche cose note che riesce a incrementare il colesterolo buono, il cosiddetto colesterolo buono, quindi l'HDL, quindi il suo probabilmente è basso proprio a causa della sedentarietà. E vedrà che è stata proprio la mia esperienza personale, le parlo proprio di quello che ho vissuto io quando avevo 32 anni, cioè un HDL di 32, da allora ho cominciato a correre e adesso viaggio su 70-80, quindi grandi risposte si possono avere. Professor Valentini, torniamo a questi zuccheri. La professoressa Lorini diceva meno male che ci sono nel sangue, ma perché questi zuccheri vanno a finire nel sangue e si accumulano in modo eccessivo? È colpa di una dieta troppo dolce o ci sono altri motivi? No, in realtà il nostro corpo è strutturato per utilizzare in modo corretto le diverse sostanze, i diversi alimenti che noi introduciamo. In alcune persone che hanno un'alterazione, soprattutto persone obese o sovrappeso, si crea un meccanismo per cui una sostanza, un ormone che si chiama insulina, fa fatica a funzionare. E l'insulina è lo strumento con cui il nostro corpo riesce a prendere dal sangue il glucosio, farlo entrare nei tessuti, nelle cellule, lavorarlo, metabolizzarlo, quindi trasformarlo da una parte in energia e in altre sostanze, e questa lavorazione del glucosio permette di utilizzare correttamente anche tutti gli altri substrati. Quindi nelle persone sovrappeso che hanno una predisposizione genetica ad ammalare poi di diabete o hanno un'insulina resistenza, di fatto usano male questo zucchero. Nelle persone in realtà perfettamente in peso, che stanno bene, non hanno nessun problema, in realtà questo zucchero diventa una, come diceva il professor Dorini poco fa, diventa veramente una ricchezza, un carburante senza il quale non staremo mica, non riusciremo a vivere, insomma. Quindi è fondamentalmente in alcune persone che hanno certe caratteristiche genetiche che portano a una resistenza e al rischio di diventare diabetiche, e coincide questo con l'obesità, esiste una difficoltà nell'utilizzare questo carburante che per noi è fondamentale per la vita. Il ritornare a un peso forma, un peso ideale, cioè perdere l'obesità, perdere il grasso viscerale attraverso l'attività fisica e un'alimentazione corretta, come diceva poco fa il professor De Feo, permette a queste persone di rientrare e utilizzare correttamente questo glucosio. In buona sostanza, se una persona è perfettamente in forma, in peso e fa una vita, come posso dire, usando lo stile di vita sani, anche se mangia una quantità qualche volta eccessiva di zuccheri e di grassi, li smaltisce senza grandi problemi. Diverso invece per una persona che ha già di per sé un'obesità e ha già una situazione metabolica alterata. Professoressa Lorini, i nostri bambini sono sovrappeso e le stime dicono che un bambino obeso rischia di diventare diabetico a 30-35 anni. La prospettiva è quindi di avere pazienti sempre più giovani? Direi di sì, perché anche noi vediamo già bambini con diabete di tipo 2, bambini sovrappeso che poi sviluppano diabete di tipo 2, che un tempo si diceva è il diabete dell'adulto e non in età pediatrica. Purtroppo la non attività, l'eccesso di introduzione di alimenti e soprattutto di zuccheri, perché zuccheri complessi, cosiddetti dolci, favorisce che i bambini diventino obesi, sovrappeso, e se c'è una familiarità per diabete di tipo 2, ecco che noi lo possiamo diagnosticare già in età pediatrica, purtroppo, cosa che un tempo non era possibile. Non vedevo 30 anni fa, 20 anni fa. Assolutamente. Professoressa, noi genitori molto spesso siamo più preoccupati del mal di gola del nostro bambino e trascuriamo, proprio perché non lo riteniamo importante, invece il fatto che sia in sovrappeso, proprio perché è ancora dura a morire l'idea che il bambino cicciottello sia un bambino che scoppia di salute. Allora, alle mamme che sono in ascolto, quali indicazioni possiamo dare? Che il bambino deve innanzitutto mangiare regolarmente, perché una cosa sbagliata è che il bambino non faccia colazione al mattino e vada soltanto con la brioche da mangiare durante l'intervallo della scuola. Ma la famiglia deve fare colazione insieme al mattino e mangiare quegli alimenti sani che sono la frutta, il latte e le fette biscottate. Non è necessario aggiungere zucchero al latte, perché il latte non è amaro assolutamente, e evitare gli zuccheri semplici, evitare che il bambino si addormenti nelle prime ore della scuola perché non ha fatto colazione e poi si sveglia a mangiare la brioche. Questo purtroppo è la maleducazione, nel senso di cattiva educazione, che hanno i nostri bambini, perché le famiglie non hanno ancora più la tradizione di riuscire a fare la colazione insieme al mattino, che già questa è educazione, diciamo, alimentare, educazione civile di comportamento, cosa che purtroppo pochissime famiglie fanno. Noi ci fermiamo perché è tempo di andare a sentire che cosa succede sui mercati, poi il meteo. E intanto, a proposito di attività fisica, quanto è sedentaria la vostra vita? Che cosa avete iniziato a fare? Noi vi consigliamo una cosa molto semplice come il cammino. Molti di voi mi stanno scrivendo per raccontarmi i benefici che hanno ottenuto nei parametri, nelle variabili che abbiamo citato adesso, di ipertensione, ad esempio il colesterolo, introducendo l'attività fisica. Ma vogliamo anche pensare al nostro sovrappeso, lo facciamo spesso, e quindi al nostro tipo di dieta. 800 24 00 24, un'ultima domanda. Qual è l'ultima volta che avete controllato la vostra glicemia? Essere e benessere. Allora, che prendete? Un paio di bistecche, Link? Per me, per Mike, pollo. Pollo fritto e... No, mi scusi. La signora evidentemente non sa molto di alimentazione. Un pasto a base di pollo fritto e patate fritte, signora, contiene circa 1000 calorie e il 50% di grassi. Allora che vuoi mangiare? Insalata di tonno, pane integrale e acqua con limone, per favore. E con questo filo di fiato vorreste fare una partita? E anche le bolle di sapone ci fate? Forza, forza, non vi fermate! Scioglietevi i muscoli! Niente più fumo, niente più alcol. Alle 9 a letto e svegli all'alba, e questo solo per cominciare. Pronti? 1, 2, 3... 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. Più attività fisica, meno calorie, controlli regolari e questo lo aggiungo io, una buona predisposizione d'animo verso la vita e le persone che ci stanno accanto. Insomma, il nostro programma di allenamento è molto semplice, ma professor Valentini, qualcosa non funziona se alcune malattie che sono strettamente legate al nostro stile di vita, come ad esempio il diabete, sono in aumento. Come se lo spiega? Io credo che ci troviamo di fronte quasi a un paradosso, per cui abbiamo una malattia che si identifica con facilità con un esame banale, quindi non complicato. Ci sono delle evidenze, come diceva prima il professor De Feo e la professoressa Lorini, che è una malattia che si può prevenire attraverso gli stili di vita, eppure la malattia sta continuando ad aumentare in termini proprio di aumento reale delle persone affette da diabete. Probabilmente perché il problema viene visto sempre da un aspetto soprattutto sanitario. In realtà il problema è un problema più complesso, è un problema che coinvolge di molto anche l'aspetto sociale, perché noi stiamo parlando di persone sane, non etichettate come persone con malattie. Quindi abitualmente la persona sana dal medico di famiglia o comunque dei medici non ci va, e quindi sfugge a un intervento di prevenzione mirata sul singolo caso. Dall'altra parte il contesto in cui noi ci troviamo a vivere, non sempre, soprattutto nelle grandi città, favorisce l'attività fisica, per cui mancano piste ciclabili, mancano aree dove uno possa muoversi senza essere intossicato dai gas di scarico. Nelle scuole tuttora ci sono i distributori di merendine, perché io ne ho visto uno recentemente andando a prendere mia nipotina, è vero che distribuisce anche la frutta, ma insieme alla frutta distribuisce anche le classiche merendine con dentro di tutto di più, no? La differenza è che il distributore della frutta non viene poi più ripristinato, perché la frutta ovviamente dopo qualche giorno deve essere tolta. Le merendine rimangono lì finché vengono consumate. Quindi quello che voglio dire è che se non si ha un approccio di sistema agli stili di vita corretti, quindi non solo sanitario ma anche proprio del contesto in cui noi viviamo, la prevenzione sarà difficile da mettere in atto. E poi per una persona sana ci sono sempre altre priorità, il lavoro, gli impegni, certo, ancora, e quindi tutto va in per ultimo, in buona sostanza. Poi la pigrizia, l'abitudine alla televisione, sarà calcolato, non vorrei dire stupidaggine, che l'usare il telecomando, cioè non usare il telecomando per girare i canali del televisore, il movimento per alzarsi e cambiare e sedersi potrebbe far ridurre il peso di 4 kg, 3 kg. Dai, per dire, fantastico. Questo lo mettiamo nei nostri consigli del nostro Daily Lab, perché noi abbiamo uno spazio in cui invitiamo sempre gli ascoltatori ad andare con consigli. Vado a memoria, ma dovrebbe essere circa 3 kg, però comunque quello anche se fossero 2,5 kg. Vuol dire che anche un banale movimento a cui non siamo più abituati potrebbe aiutare a far perdere peso, come per esempio non usare l'ascensore, usare le scale e così. Certo, ma questo del telecomando sembra un consiglio che stuzzica anche i pigri, no? Perché già la scala uno dice faccio fatica, invece alzarsi per cambiare canale, d'altra parte prima si faceva così. Professoressa Lorini, sembra per un genitore che vede il bambino magari un po' sovrappeso, quali possono essere i segnali che gli devono far comprendere che quel sovrappeso rischia proprio di danneggiare la sua salute? Deve fare degli esami o ci sono anche altri segnali? Noi abbiamo letto che ormai il diabete di tipo 2, no? Sta coinvolgendo sempre di più fasce di popolazione più giovane e, come lei ha detto, anche i bambini, no? Il diabete degli adulti sta diventando anche un diabete dei bambini. Ci sono dei segnali? Ma innanzitutto direi che siccome l'Italia è l'unica nazione al mondo, e lo sottolineo, che ha la figura del pediatra di famiglia, il che vuol dire che tutti i bambini hanno garantito dalla nascita il pediatra di famiglia, e il pediatra di famiglia segue l'accrescimento normale del bambino, non è che segua solo il bambino quando è malato, sì, ma anche il compito di seguire l'accrescimento del bambino, perché un genitore, se soprattutto il primo figlio, e sappiamo che molte famiglie hanno un unico bambino, non hanno neanche il confronto, devono sapere che esistono dei parametri di normalità, di accrescimento in altezza e peso, e il bambino va seguito perché potrebbe essere o troppo alto o basso o troppo grasso o troppo magro, e ha delle curve di crescita, delle, sì, diciamo, da seguire dalla nascita del bambino, e il pediatra di famiglia ha proprio anche questo compito, e proprio delle tappe di salute nel bambino normale, non è che mi riferisco al bambino malato. Quindi già col pediatra di famiglia i genitori devono tenere i contatti e capire se il bambino è sovrappeso, perché non è soltanto l'obesità, è anche in funzione dell'altezza che noi dobbiamo preoccuparci se il bambino è troppo pesante o meno. E quindi cominciare a introdurre la mentalità che se il bambino tende a diventare sovrappeso, di migliorare, correggere l'alimentazione che non è corretta, e introdurre la mentalità dell'attività fisica. Il nuoto va benissimo, ad esempio, nel bambino anche un po' grassottello, perché non deve caricare, non deve far fatica. E il nuoto è, sappiamo che i bambini anche appena nati, ci sono alcuni che li mettono in acqua, perché erano in acqua. Il nuoto, non caricano, è l'ideale per il bambino. E devono introdurre questa mentalità dell'attività fisica dei bambini, che fa parte della vita normale. Perché purtroppo ormai a scuola vanno quasi tutti in macchina. E quindi lì non riusciamo a introdurre, ma pensare che devono comunque dedicare qualche attività fisica. E nuoto, vabbè, la Liguria è fortunata perché c'è il mare, perché c'è le piscine, ma anche nelle altre città, perché soprattutto un'attività fisica che anche il bambino grasso riesce a fare, non fa fatica sulle articolazioni, è l'ideale. In linea con noi ci facciamo aiutare da un grande, abbiamo un atleta e ci aiuta in questo nostro progetto di allenamento. Saluto Antonio Rossi. Antonio, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Senti, ma che bambino eri tu? Ma io, guarda, sono il quinto di cinque fratelli, quindi i miei fratelli già facevano sport, poi sono il più piccolo, quindi mia mamma e mio papà, insomma, mi accodavano a loro, quindi se andavano a sciare io andavo a sciare con loro, andavano a nuotare io andavo a nuotare con loro, quindi ho iniziato a fare sport già molto presto. Avevi un po' la strada battuta, come si dice. Sì, sicuramente. Avevo anche le attrezzature vecchie, perché poi mi passavano le loro, quindi... È un classico, eh? È un classico. Ti rendi conto che il primo scarpone da sci nuovo l'ho avuto già da adolescente. Senti, Antonio, tu sei testimonial di una giornata molto importante, la giornata mondiale del diabete, che si celebra ogni anno a novembre. Stiamo insistendo qua proprio a... cerchiamo di diventare atleti in questo percorso che ci porta al benessere, e gli atleti hanno, no? Anche gli atleti si allenano. A me piace pensare come lo stile di vita un po' come la nostra palestra, ci sono delle cose da aggiungere, delle cose da limare, alcune così abitudini da modificare, però può essere una bella avventura. Assolutamente sì, io penso che lo sport possa aiutare tanto, perché è un metodo educativo veramente facile da insegnare ai bambini, perché veramente in un modo molto giocoso, divertente, imparano delle regole di vita che poi vanno ben al di là della vita sportiva, ma nella vita di tutti i giorni. Io penso che bisogna accrescere in Italia soprattutto la cultura sportiva, nel senso che far sport, bisogna vedere lo sport non come un hobby, ma proprio come uno stile di vita, qualcosa che poi fa bene a tutta la società. È anche per questo che il CONI insieme al MIUR ha attivato da un paio d'anni un progetto, prima pilota, adesso spero che diventi proprio a livello nazionale, di alfabetizzazione motoria, già le primarie, dove si cerca di far fare più attività fisica, neanche sport, già ai bambini che stanno alle elementari. E poi può essere anche una buona occasione praticare sport, attività sportiva proprio insieme ai figli. Tu ci raccontavi, sì, ecco, no? Che i tuoi... Esatto, perché sai cos'è? Si dice sempre fate fare sport ai vostri bambini, perché è molto importante, però è l'esempio dei genitori che serve. Bisogna far fare sport, attività fisica, insomma, se non è che bisogna diventare tutti campioni, però genitori insieme ai figli, perché se gli dici al figlio fai sport, poi vedono il padre che è sempre sul divano che usa addirittura il telecomando, diceva il professor Valenti. Il miglior metodo educativo è l'esempio, quindi io spero che anche i genitori si rendano conto dell'importanza, insomma, del futuro dei loro bambini e incominciano a fare, anche perché basta poco, basta mezz'ora di attività fisica al giorno. Grazie ad Antonio Rossi per essere stato con noi. Grazie a voi. Un abbraccio. Essere e benessere. In linea con noi abbiamo Sergio, ci chiama da Bergamo. Buongiorno Sergio, benvenuto. Buongiorno e grazie per l'opportunità che mi date. Niente, io ho chiamato per rispondere alla domanda che ha fatto lei, no? Quando è che vi siete provati la glicemia l'ultima volta? Siccome io ho il papà diabetico e lui, diciamo, ha uno strumento che ha acquistato in farmacia e prova la glicemia, diciamo, 2-3 volte al giorno. Io quindi l'ho acquistato anch'io e me la sono provata e la glicemia è 95 in questo momento. Quindi quello che noi chiediamo voi fate, perfetto. Esattamente, Sergio. Però la domanda che io volevo sottoporre al suo esperto è questa qui. Che affidabilità ha il risultato che queste macchinette ci danno? Perché a me è capitato, proprio è una prova che ho voluto fare io, dopo che il medico mi ha prescritto gli esami del sangue, e negli esami c'era anche la glicemia, io la mattina prima di andare a fare la prova della glicemia l'ho provata a casa e il valore era accettabile, era sui 100. Dai risultati invece che mi sono pervenuti dall'ospedale in cui ho fatto questi test, superava i 125. Oh, per carità. Allora Sergio, chi credere? Allora. Bravo. Grazie Sergio, soprattutto perché in diretta ha provato la glicemia e ci dà occasione di parlarne con i nostri esperti. Professor Valentini. Ci sono tante cose che ci suggerisce la telefonata di Sergio. La prima cosa che occorre però dire in realtà è che non si può far diagnosi con la glicemia del dito, ecco, perché per noi è uno strumento, l'autocontrollo delle glicemie è fondamentale per le persone che sono in trattamento, per capire se hanno raggiunto quei valori di glicemia che proteggono dalla comparsa delle complicanze. Sì. In realtà gli strumenti sono strumenti che hanno un'imprecisione di loro, che può essere data da una parte sulla diversa sede di prelievo del sangue. Allora, dosare il sangue capillare vuol dire dosare il sangue intero. Quando si va in laboratorio e si va il prelievo dal braccio, di solito il sangue viene poi centrifugato e si va a dosare sul plasma. Ebbene, tra i due modalità di dosaggio c'è una differenza che può variare sui 10-15 punti in milligrammi. Sì. Quindi una glicemia fatta dal dito di 100 può essere 110 sul sangue plasmatico, per cui è più alta sul sangue. Quindi plasmatico. La prima cosa che dobbiamo fare, noi non possiamo autodiagnosticarci. No. È questa. Secondo aspetto, spero di essere chiaro, la variabilità dell'esame fatto sul braccio, cioè in laboratorio, no? Per variabilità io intendo che se prende un campione e lo misura 10 volte, un campione che vale 100, diciamo così, per 10 volte non viene mai fuori sempre uguale, no? Certo. Però la variabilità dovrebbe essere molto molto bassa, inferiore di solito ma di molto, cioè ci deve essere uno scarto molto molto piccolo, molto basso, no? quindi deve essere, e poi avendo un riferimento, cioè uno standard di riferimento, anche qui la differenza deve essere molto contenuta, inferiore all'1% circa, mentre invece gli strumentini che sono fatti apposta per permettere alla persona di capire come sta e come variare la terapia in realtà. Però sono per le persone affette da... Esatto, hanno una variabilità invece intorno al 10%, quindi non solo misurano la glicemia in sedi diverse, con valori quindi diversi, sangue intero rispetto al plasma, ma di per sé hanno già una minor precisione, maggior variabilità rispetto all'esame di laboratorio. Quindi l'autocontrollo serve per chi ha diabete, per far diagnosi serve andare in laboratorio. Professoressa Lorini, ma la glicemia va misurata anche nei ragazzi, nei bambini? Certo che va misurata nei ragazzi. Quando fanno degli esami, diciamo, di routine, la glicemia va controllata. Se abbiamo pazienti con diabete, soprattutto di tipo 1, loro controllano quotidianamente la glicemia prima di somministrarsi anche la dose di insulina, o quando non stanno bene perché magari non si alimentano, non riescono a alimentarsi in modo corretto perché stanno più fermi, quindi va controllata più frequentemente durante un fatto intercorrente la glicemia, e i bambini hanno anzi uno o due apparecchietti talora per confrontare il valore della glicemia, e come diceva molto bene il dottor Valentini, è un parametro che i pazienti con diabete, soprattutto non solo il tipo 2, ma soprattutto chi fa terapia con insulina per il diabete tipo 1, hanno a domicilio e devono sempre avere con sé. Professor De Feo, lei è ancora con noi. Noi abbiamo iniziato proprio con il nostro contapassi, raccomandando alle persone sane di mantenersi in salute camminando. Ma l'attività fisica è anche terapeutica, anche per le persone che hanno ricevuto una diagnosi di diabete. Perché? Ma anzitutto perché va alla radice del problema. Il diabete di tipo 2 nasce appunto a causa della sedentarietà combinata con una non corretta alimentazione. Quindi c'è uno squilibrio fra le entrate e le uscite. E alla fine si crea questo stato di adiposità e insulinoresistenza che certo. porta al diabete. Ora è chiaro che se noi agiamo con l'attività fisica andiamo anzitutto a ridurre il grasso addominale, che è quello che è più correlato alla resistenza insulinica, quindi migliora, come diceva il professor Valentini, la sensibilità a questo ormone che distribuisce lo zucchero nei tessuti. E alla fine, oltre ad avere un miglior controllo della glicemia, l'esercizio fisico nel diabetico esercita altri fattori che ne fanno quasi un polifarmaco, cioè più farmaci messi insieme. Le porto solo alcuni esempi i più significativi. Sì. Abbassa la pressione arteriosa, che spesso è alta nelle sì. persone con diabete. Riduce l'uso dei farmaci, cioè per esempio chi fa terapia con insulino e ipoglicemizzanti orali e inizia l'esercizio fisico finirà per ridurre l'uso di questi farmaci, alcuni addirittura nel nostro centro al Curiamo riescono a sospendere l'insulina e passare quindi a una terapia più semplice. Ma oltre a questo effetto sui costi, che non è secondario, c'è un effetto che non è considerato sempre, ma è importantissimo. L'attività fisica alla fine migliora lo stato di forma fisica del soggetto. Ognuno di noi può essere valutato con un test che si chiama test a sforzo, certo. che esprime la nostra capacità aerobica. Bene, nel diabetico migliorare solo di un po' la capacità aerobica significa ridurre il rischio di morte da tutte le cause. Insomma, professore, tante buone ragioni per riprendere, no? il nostro invito e iniziare a muoverci. Muoviamoci, anzi raccontatemi se in questo weekend siete riusciti a prendere il contapassi e a misurare quanti passi avete fatto. Se volete chiamarci non potete più farlo perché devo salutarmi, ma potete sempre, come sempre, scriverci. Professore Salorini, grazie di cuore. Professor De Feo e professor Valentini, grazie per essere stati con noi. La trasmissione finisce qui, noi ci sentiamo lunedì. Essere e benessere.